Con l'autore attore Vittorio Continelli per parlare del debutto del suo spettacolo Nel Labirinto, discorso sul mito. A Pontedera, provincia di Pisa, la biblioteca Gronchi, il 19 e il 20 ottobre. Vittorio, ben trovato. Ciao, buonasera. Raccontaci. Allora, Nel Labirinto è l'ultimo capitolo di un progetto più ampio che si chiama Discorso sul mito ed è prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e in particolare dal Teatro Era e dalla struttura che esiste a Pontedera, che è una delle più importanti del paese. Credo, so che è una delle più importanti del paese. E quindi debutto con questo nuovo capitolo che racconta della fondazione della civiltà europea. Questo è sostanzialmente, parto dal Ratto d'Europa, attraverso tutta la mitologia cretese, fino ad arrivare a Teseo che diventa re di Atene e di là poi comincia la nostra civiltà. Tutto questo è immerso in un labirinto, ma più propriamente è immerso nel labirinto. Il labirinto che è il labirinto della mitologia, perché le storie della mitologia sono, oltre a essere labirinti, che sono anche spesso contraddittori, ci sono tante versioni dello stesso mito e poi per me rappresenta anche un po' il labirinto della vita. Racconto storie antiche, storie che hanno a che fare con la mitologia, proprio perché secondo me rappresentano non meglio di qualunque altra storia, ma rappresentano molto bene quello che è l'essere umano, quello che è stato, quello che è e probabilmente quello che sarà. Questo in estrema sintesi, e poi si potrebbe andare più nel profondo. Allora, considerato che è un nuovo capitolo del progetto più ampio che dicevi, Discorso sul mito, raccontaci un po' e come è nato tutto e le varie tappe. Anno vado in giro, nel caso Discorso sul mito, raccontando a braccio miti antichi, storie antiche, c'è cioè un filone per ogni racconto che faccio e quindi quello racconto. C'è un racconto sui miti d'amore, un altro sulle stelle, uno su Dioniso, quelli più recenti ce n'è uno su Prometeo, insomma ce ne sono diversi, miti di fondazione, insomma tanti. Poi è successo che questo progetto è stato notato dalla struttura che mi produce, da Pontedera, da Roberto Bracci in particolare, che lo ha visto e loro mi hanno dato la possibilità di avere una produzione, una struttura produttiva. Infatti, per la prima volta nell'ampio raggio del progetto, io ho un testo scritto per la prima volta, mentre per tutti gli altri racconti di Discorso sul mito sono fatti a braccio. E quindi ho delle scene, ho un tecnico che mi segue, un costume, una costumista, un costume, ho le musiche originali di Ares Tavolazzi, che sono per me un regalo magnifico che Pontedera mi ha fatto e quindi mi affaccio con questo progetto nato in maniera, ripeto, totalmente anarchica e davvero come autoproduzione, mi affaccio in un sistema che è molto diverso da quello nel quale, in un sistema, in un ambito totalmente diverso da quelli nei quali si è mosso fino ad ora il progetto. Quindi è tutto molto nuovo, ma anche molto eccitante, molto bello per me. Tutti i capitoli sono autonomi. Autonomi, sebbene poi ovviamente molte delle storie spesso si incrocino, passino da un capitolo all'altro, secondo un sistema che può essere quello del sincretismo mitologico. Vabbè, a parte le battute, sì, sono tutti capitoli autonomi. Sì. Entriamo in questo labirinto. Raccontaci un po' come lo hai sviluppato. L'ho sviluppato davvero partendo dal titolo, chiedendomi cosa fosse per me il labirinto. Ho subito avuto in mente la storia cardine che volevo raccontare, che va appunto dal ratto mitico di Europa, Zeus, che si trasforma in toro e rapisce la principessa fenicia Europa, la porta verso il mare, la porta a Creta, e poi di là nasce la civiltà cretese che si sviluppa, c'è cioè il Minosse, che è importantissimo, e poi a un certo punto compare il Minotauro. Compare il Minotauro che è un mostro che sta al centro del Mediterraneo, che forse rappresenta la parte mostruosa di ognuno di noi, una parte di noi che nessuno ama raccontare, finché in questa storia non si inserisce un eroe, perché eroi e dei sono sempre fondamentali per gli sviluppi di queste storie, si chiama Teseo. Teseo sconfigge il Minotauro e la ricchezza di Creta, tutta la civiltà, si sposta dal Mediterraneo sulla terraferma. Questo detto in soldoni. Tutta questa storia, tutto questo sviluppo di eventi è racchiusa tra un prologo e un epilogo che invece sono propriamente nel labirinto. Insomma, il labirinto è sempre presente all'inizio, nel mezzo dello spettacolo e alla fine, perché poi a costruire il labirinto spinto ci pensa un genio che si chiama Dedalo, che è un inventore, che è un inventore di artifici. E Dedalo è un personaggio sublime per quanto mi riguarda, però insomma di personaggi interessanti, importanti, ce ne sono tanti in questa storia, e ognuno di questi rappresenta, no, all'inizio del discorso torno al fatto che per me raccontare le storie significa raccontare l'essere umano, ecco, e questa storia in particolare credo che inquadri quello che noi siamo, quello che noi siamo diventati, perché torno a dire il labirinto è sì il labirinto della mitologia, perché le storie mitologiche sono labirintiche, ma è anche il labirinto della vita. Molto spesso ci capita di trovarci in un labirinto, e questa storia, queste storie che si intrecciano in questo racconto mettono in scena anche i modi, le maniere possibili di uscire da un labirinto. Poi ognuno troverà la sua, o qualcuno magari non la troverà, però insomma il punto di partenza è stato questo. Probabilmente mi trovavo in un labirinto, io in un labirinto personale, quando ho cominciato a scrivere e a pensare di raccontare questa storia, e poi pian piano, seguendo gli sviluppi e i tracciati, proprio i percorsi dei vari personaggi, mi sono accorto che ognuno di loro esce dal labirinto, e ognuno di loro esce dal labirinto in maniera diversa, ognuno ha la sua personale maniera di uscirne. Soltanto uno rimane nel labirinto, è il Minotauro, che è la parte mostruosa di ognuno di noi. Sì, sì. Dopo questa tappa a Pontedera lo porterà in giro? Sì, per ora siamo in Toscana, fino a dicembre siamo in Toscana. C'è questo debutto a Pontedera nell'ambito di un festival, perché sono qui per i 10 anni del Teatro Vera di Pontedera. Infatti sì, è un festival che poi si sviluppa in tutta la città, infatti io sono ospite della Biblioteca Gronchi, e tra l'altro probabilmente non c'era luogo migliore per dare inizio a questa avventura, perché è bellissimo essere circondati di libri, ho un labirinto inserito in un altro labirinto. Poi sarò al Teatro Era, sarò al Teatro Era anche con dei matinè, perché questo spettacolo, questo tipo di racconto si presta moltissimo a essere fruito dagli studenti del liceo, e poi sarò a dicembre per ora a Scandicci al Teatro Studio. Nel 2019 capiremo che cosa succederà, anche perché debuttare a ottobre poi comporta uno sviluppo più lento della stagione, insomma penso che la stagione successiva sarà quella con più repliche. Al momento ci muoveremo in quest'ambito. Gli altri capitoli continueranno a vivere e se ne aggiungeranno altri? Ma quella è la natura del progetto. Ok. Quella è la natura del progetto, quindi insomma assolutamente sì. Ok. E allora ricordiamo questo debutto alla Biblioteca Gronchi a Pontedera, in provincia di Pisa, il 19 e 20 ottobre, del capitolo Nel labirinto, nel discorso sul mito, nel progetto più complessivo Discorso sul mito. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Vittorio Continelli. Grazie. Vittorio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto.